Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Svanverata è una parola che non troverete nel vocabolario. Essa viene coniata prendendo spunto dalla locuzione parlare a vanvera, cioè tanto per dar fiato alla bocca, senza troppo pensare a quello che si dice. L'etimologia della parola vanvera non è ben chiara. Anticamente era fanfera, con la F, e ha la stessa radice di fanfarone. In ogni caso il significato è chiaro e l'uomo che conia il termine svanverare sa bene che cosa intende. Anche perché si tratta di una persona coltissima, di uno scrittore molto noto, di qualcuno che fa della parola la sua professione ed è considerato da tutti un grandissimo maestro. Scrittore e giornalista al contempo, dà una sua personalissima interpretazione di queste due professioni apparentemente in contrasto. Il giornalismo e la letteratura sono la stessa identica cosa. Il vero mestiere dello scrivere consiste nel raccontare le cose nel modo più semplice possibile, più evidente possibile, più drammatico o addirittura poetico che sia possibile. E poiché tutti i generi sono ammissibili in letteratura e nel giornalismo, tranne il genere noioso, bisogna stabilire col lettore un contatto emotivo, costruendo ogni testo, letterario o giornalistico, sugli elementi capaci di tenerlo avvinto e persino di farlo piangere. Nessun contrasto, quindi, tra l'invenzione letteraria e il racconto dei fatti tipico del giornalismo per quest'uomo, che ama anche improvvisare termini nuovi, come sta facendo ora, mentre invita i suoi collaboratori più stretti a svanverare con lui. Quest'uomo è il grandissimo scrittore Dino Buzzati. Dino Buzzati. La maggior parte delle persone lo conosce come meraviglioso autore di romanzi di enorme successo, come Il deserto dei Tartari, pubblicato nel 1940, dal quale il regista Valerio Zurlini trae nel 1976 l'omonimo e poetico film, interpretato da Vittorio Gassman, Philippe Noiret e Giuliano Gemma. Uno dei tanti capolavori del grande Dino Buzzati, che però forse non tutti conoscono per la sua intensa attività di giornalista, che egli porta avanti tutta la vita in parallelo a quella di scrittore e che anzi segna proprio i suoi esordi professionali. La colta e intellettuale famiglia di Dino Buzzati è originaria di San Pellegrino di Belluno. Qui il padre, la madre e i quattro figli passano tutte le estati, mentre durante i mesi invernali vivono a Milano, dove il padre è professore di diritto internazionale presso la neonata Università Bocconi. Il giovanissimo Dino, a differenza dei suoi fratelli più portati verso le materie scientifiche, dimostra una propensione innata verso le arti in generale. Studia pianoforte e violino e si appassiona alla pittura, un passatempo che mantiene tutta la vita, pur se a livello dilettantistico. Ha anche molte altre passioni, fra le quali la montagna, che dice spesso di sognarsi anche la notte, e gli egizi, un amore che lo porta addirittura a crearsi uno pseudonimo ad essi ispirato, Dinubis, con il quale firma le lettere ai suoi amici. Si iscrive a giurisprudenza solo per far contenti i suoi, ma è quando è appena ventenne che Dino Buzzati si affaccia a quella che diverrà la sua professione per la vita, la scrittura. Il desiderio di mettere su carta le sue sensazioni è fortissimo e benché molto giovane, nel 1928, pochi mesi prima di laurearsi, riesce a entrare al Corriere della Sera come praticante. Mentre varca la soglia della storica sede di via Solferino a Milano, dove si trovano gli uffici del Corriere, Buzzati si sente un giovane realizzato. È per lui una soddisfazione immensa e benché abbia un carattere piuttosto burbero e poco incline alle manifestazioni di giubilo, è veramente contento. There's no one this paper wouldn't please, 'cause every column guarantees a smile, a tear, a laugh or a frown. From every walk of our society, variety, from comedy to tragedy. Just turn the page and see. Extra, extra, read all about it, get your paper here, what do you read there? Dino Buzzati alterna quindi il suo lavoro di scrittore a quello di giornalista per il Corriere della Sera. Non è facile dire da dove finisca un'attività e inizi l'altra, e addirittura molti dei magnifici racconti brevi che avranno tanta fortuna negli anni e gli regaleranno anche il premio Strega vengono pubblicati in anteprima proprio sulle pagine del quotidiano milanese. La straordinarietà della sua visione poetica, la grande capacità di trasformare i fatti in qualcosa di personale, fanno sì che in 44 anni di professione Buzzati conduca il suo racconto giornalistico su un piano altamente emotivo. Esistono centinaia di esempi di cronache che tengono avvinti migliaia di lettori e che spesso li fanno anche piangere, sorridere, gioire. Quando ad esempio nel 1964 viene inaugurata la metropolitana milanese, il suo articolo di cronaca passa alla storia. Mentre è seduto alla macchina per scrivere e deve decidere come impostare l'articolo, Dino non ha dubbi. È la stessa metropolitana che deve raccontare le meraviglie sotterranee della città. È attraverso i suoi occhi che dobbiamo conoscerla. È toccante il suo saluto ai passeggeri. Non guardatemi con questi occhi stralunati. Sono di puro sangue milanese anch'io. Come voi conosco ormai vita e miracoli della città. Quante ne ho sentite imparate per anni e anni, mentre mi scavavo lentamente la strada al di sotto delle vostre case, laddove attraversavo la melma, i sassi, la terra, le macerie antiche, nell'intrico di tubi, cavi, fili, condotti e fogne, dove scolano e si depositano da secoli i vostri più gelosi e amari segreti. Nuova favola di Milano, il sospirato viaggio incomincia. Giornalista assolutamente sui generis, ha anche parecchi detrattori e nemici, forse più che altro gelosi, che lo accusano di trascurare i fatti a beneficio delle sue invenzioni. Ma non è così. Buzzati è invece un cronista scrupolosissimo. Giunto sul luogo dell'accaduto, lo esplora, ascolta le persone, raccoglie le testimonianze con coscienza e imparzialità. Rispetta la famosa regola inglese delle 5 W. Chi, dove, quando, che cosa, perché. Ma lo fa a modo suo, dando un'interpretazione dei fatti avvincente, spesso commovente, ma che sempre convince i lettori, trasformandolo in breve in uno dei giornalisti italiani più seguiti in assoluto. Forse è per questo che nel 1950, quando nel mondo dell'editoria milanese si arriva a un punto di svolta importante e si deve decidere se affossare o tentare di far risorgere un rotocalco storico importante, tutti pensano a Dino Buzzati. Il moribondo, o per meglio dire la moribonda, è la famosissima Domenica del Corriere. Fondato a Milano nel 1899, il popolare settimanale è fortemente voluto da Luigi Albertini, allora direttore amministrativo del Corriere. Supplemento illustrato del quotidiano ha 12 pagine e viene distribuito gratis a tutti gli abbonati, mentre in edicola costa 10 centesimi. È considerato a tutti gli effetti il settimanale degli italiani. Racconta di fatti piccoli e grandi, di tragedie e di gioie, e soprattutto li mostra, grazie alle stupende copertine, illustrazioni di un giovane disegnatore allora sconosciuto, Achille Beltrame. La Domenica diviene ben presto un grande successo editoriale, che accompagna la vita del paese e racconta attraverso le sue mitiche copertine un'importante fetta della nostra storia nazionale, riportando in maniera esaltante anche gli eventi di ben 2 guerre. Quando Achille Beltrame muore nel 45, viene sostituito da Walter Molino, che come il suo predecessore firma copertine memorabili, divenendo a sua volta famosissimo. Ma le cose cambiano. Nell'immediato dopoguerra nascono i primi rotocalchi, Epoca, Oggi, L'Europeo. Sono progetti editoriali innovativi, ricchi di fotografie, dove la cronaca si mescola ai primi gossip. La Domenica del Corriere non si è mai rinnovata da quel lontano 1899, sempre fedele al suo stile che ora appare improvvisamente obsoleto. Nel giro di pochi mesi, da 1.800.000 copie, si passa a 1/3. Si perdono anche 3.000 vendite a settimana. Prima di chiuderla, la proprietà tenta un'ultima carta. E Gaetano Afeltra, direttore del Corriere d'Informazione, edizione pomeridiana del Corriere della Sera e grande amico di Buzzati, che trova la soluzione. Per risollevare la Domenica ci vuole una visione anomala, fuori dagli schemi. Datemi retta, c'è solo un uomo che può rianimare la morente. E quell'uomo è Dino Buzzati. Buzzati, punta di diamante del Corriere, scrittore affermato e conosciuto anche all'estero. I suoi libri, Barnabò delle montagne, Il segreto del bosco vecchio, Il deserto dei tartari, sono dei bestseller e sono divenuti tutti dei magnifici film. Perché mai uno come lui dovrebbe prendersi una gatta da pelare come l'agonizzante Domenica del Corriere? Un giornale anche poco considerato in quegli anni del dopoguerra, un rotocalco rimasto all'Ottocento. Tanto che nei corridoi del Corriere, quando un giornalista vuole sfottere un collega, lo apostrofa sempre allo stesso modo. Zitto tu, che puoi scrivere al massimo sulla Domenica del Corriere. Ma mentre sta ascoltando la proposta che gli viene fatta dai rappresentanti della famiglia Crespi, proprietaria del Corriere della Sera, Dino Buzzati ha un moto d'orgoglio. Quella rivista è un pezzo di storia d'Italia. Le sue mitiche copertine hanno raccontato settimana dopo settimana gli eventi più importanti del paese. Non la si può gettare come se nulla fosse. Un tentativo va fatto. Let's be optimistic. Let's say Il vero grande capolavoro giornalistico di Dino Buzzati, magnifico autore di libri di successo e di reportage storici, è la resurrezione della Domenica del Corriere. Sì, resurrezione, perché il glorioso settimanale del Corriere della Sera è agonizzante. Il direttore Egidio Possenti, che sa fare solo il critico teatrale, non riesce a rinnovarlo e una nascente genia di rotocalchi moderni, epoca, oggi, l'europeo, affossa il giornale sempre di più. Oramai vende poche migliaia di copie a settimana e non ha più senso tenerlo in vita. Ma prima di chiuderlo, la proprietà tenta un'ultima carta. Lo affida a Dino Buzzati. Lo scrittore accetta l'incarico. Non può pensare che un esempio di editoria così positivo, ma anche antico, visto che la Domenica del Corriere viene fondata nel 1899, debba svanire nel nulla lasciandosi alle spalle solo un brutto ricordo. E così dal 1950 Buzzati diviene il direttore ombra del rotocalco, iniziando da subito a immaginarsi la sua Domenica del Corriere. Svecchia la grafica, aumenta il numero di pagine da 12 a 48, rincara persino il prezzo, riconferma il grandissimo Walter Molino, ma soprattutto ha una grandissima intuizione. I nostri collaboratori sono tutti insegnanti delle elementari, del ginnasio. Non c'è nemmeno uno dei grandi giornalisti del Corriere. Ma non è vero che solo un maestro elementare possa far comprendere le cose ad un semi-analfabeta. Solo i veri giornalisti sanno farsi capire da tutti, dal garzone di bottega allo scienziato. E se anche un solo lettore non comprende, la colpa non è sua, ma del giornalista che non è riuscito a spiegarsi. Dobbiamo passare dai maestri di scuola ai maestri del giornalismo. Questa idea è una di quelle che fanno parte delle cosiddette svanverate. Il miracolo buzzatiano ha questo nome, un termine da lui stesso coniato per intendere il lavoro di ideazione del giornale fatto in una riunione settimanale. Durante queste divagazioni, questi rimbalzi di idee, è lecito dire qualsiasi cosa venga in mente. Molto spesso, fra una sciocchezza e una svanvera, affiora una larva di idea che viene poi rimessa a punto e realizzata. E questo è il caso, per esempio, dello spazio dedicato alla politica, con l'obiettivo di spiegarla a chi non la capisce. La svanverata consiste nell'affiancare alla trascrizione del discorso di un politico la sua traduzione in italiano corrente. L'intuizione più grande è però quella di trovare dei collaboratori di valore. In fondo, si sta dicendo Dino Buzzati, un giornale di cosa è fatto? Di articoli. Sì, di una bella copertina, d'accordo. Certo, di informazioni anche più leggere, come i programmi televisivi, le classifiche dei film più visti, dei dischi più venduti. Ma sono i giornalisti che fanno un giornale. Ecco perché Dino sta pensando a qualcuno. Io mi considero un condannato al giornalismo, perché non avrei saputo fare niente altro. È un uomo che Dino Buzzati conosce da molti anni. Un giornalista come lui, una delle migliori penne del Corriere, con una voce e un accento assolutamente inconfondibili. Il suo nome è Indro Montanelli. Indro Montanelli. Buzzati e Montanelli si conoscono da tempo. Sono colleghi, anche se la vicenda di Indro al Corriere della Sera è decisamente altalenante a causa delle sue numerose e personalissime prese di posizione. La famiglia Montanelli è di Fucecchio, in provincia di Firenze. Il padre di Indro è il più giovane preside di liceo d'Italia. Questa professione porta la famiglia a spostarsi parecchio, Rieti, Lucca, Nuoro, per poi tornare a Firenze, dove Indro si laurea in giurisprudenza. Nonostante l'ambiente familiare positivo, il ragazzo soffre di un male che ciclicamente lo insegue tutta la vita. Crisi depressive che gli attanagliano la gola, gli fanno sentire la morte vicina e lo gettano in una profondissima disperazione. Mentre allievo ufficiale a Palermo, sta talmente male che i suoi superiori si vedono costretti addirittura a chiamare la madre, Maddalena Doddoli, che anni dopo racconta in un programma televisivo il fatto. Certe notti poi, quando lo riaccompagnavo in caserma, se non lo vedevo tranquillo, io ritornavo a farmi vedere, vero, in piazza, come si chiamava, piazza... Rosolino Pilo, mi pare. Ecco, si affacciava alla finestra della sua caserma e mi vedeva e stava tranquillo. Tornato a casa, Indro inizia a collaborare per diversi periodici. Non c'è niente da fare, scrivere è la sua passione e ha deciso che farà il giornalista. È il 1932 quando firma un sentito articolo antirazzista. Dopo pochi giorni dall'uscita del pezzo, Montanelli viene convocato niente meno che da Benito Mussolini. Fui ricevuto dal Duce, il quale voleva elogiarmi per un articolo antirazzista che io avevo scritto. Mi disse: avete fatto benissimo a scrivere quell'articolo. Il razzismo è roba da biondi, senza rendersi conto Io che allora avevo i capelli ero biondo. Inizia per Indro un periodo di intenso lavoro e spostamenti continui. Esordisce come giornalista di cronaca nera a Parigi per il Paris Soir. Viene mandato come corrispondente in Norvegia e da lì in Canada e infine viene assunto a New York alla prestigiosa United Press. È contento, indubbiamente sta facendo quello che più desidera, scrivere e fare il giornalista. Ma quando nel 1935 il regime fascista attacca l'Etiopia, Indro decide di rispondere al richiamo della patria e di partire volontario. Gli affidano addirittura il comando di una compagnia del 20° battaglione eritreo e lui si conquista a tal punto gli Ascari, indigeni arruolati sotto la bandiera italiana, che questi gli trovano addirittura una moglie. Da questa esperienza Indro trae un libro che pubblica con un discreto successo al suo rientro. Ma non è destinato a rimanere a lungo in Italia. Nell'estate del 1936, infatti, scoppia la guerra civile spagnola e Indro, come sempre, è pronto per una nuova avventura. Mentre riceve l'incarico come corrispondente estero da parte de Il Messaggero, il quotidiano di Roma, il giovane giornalista toscano, che ha solo 27 anni, ma già moltissima esperienza alle spalle, sente che quella del corrispondente è proprio la vita che cercava. Avventurosa, ricca di colpi di scena, decisamente l'opposto della monotonia che lui rifugge come la peste. Anche se la sua presa di posizione in Spagna gli inimica il regime in Italia, tanto da indurlo ad accettare un lavoro in Estonia, quando infine nel 1938 Indro torna in Italia, lo aspetta una gioia molto grande. Aldo Borelli, direttore del Corriere della Sera, lo chiama a scrivere articoli di viaggi e letteratura, argomenti che lui ben conosce. È qui che Indro Montanelli incontra per la prima volta Dino Buzzati, gettando le basi di quella che si trasforma presto in una lunga e proficua amicizia e in una futura collaborazione destinata a cambiare il corso delle loro esistenze. Tra poco, qui, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Destini incrociati vi sta raccontando oggi la storia di un incontro tra due grandi giornalisti che non solo cambia l'esistenza dei due protagonisti stessi, ma modifica il destino di una delle riviste fondamentali nella storia dell'editoria italiana, La Domenica del Corriere. E per risollevarne le sorti che la vedono sull'orlo di essere chiusa, che viene infatti chiamato il direttore ombra Dino Buzzati. Egli ritiene che sia fondamentale puntare sulla qualità dei giornalisti che scrivono sulle sue pagine. Per questo contatta un suo amico di vecchia data, il grande Indro Montanelli. I due diventano amici, anche se non collaborano direttamente, riconoscono da subito nell'altro lo stesso modo di pensare, quella certa rettitudine morale, la difesa a tutti i costi della libertà di opinione, che è una caratteristica essenziale per fare del buon giornalismo. Mentre Buzzati alterna la sua professione di giornalista a quella di scrittore di grande successo, Montanelli è un inviato speciale e segue gli eventi storici che con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale lo portano in Albania, Germania, Polonia, Finlandia e Norvegia. Con l'entrata in guerra dell'Italia, Indro viene inviato in Francia e nei Balcani, e poi come corrispondente dalla Grecia e dall'Albania. Sono esperienze spesso dure quelle che deve affrontare il giovane e che formano in lui una visione molto critica nei confronti del regime fascista di Mussolini. I suoi reportage molto espliciti gli procurano addirittura una condanna a morte da parte dei nazisti. Mentre Indro si trova in carcere, conosce un ragazzino sedicenne con il quale fa presto amicizia, tenuto in galera solo perché sua madre è americana. Si chiama Mike Bongiorno. Siccome non aveva colpe, lo tenevano libero nel radio, sì. E lui portava le sigarette. Faceva lo scopino, il lavandaio, sì. Proprio adorabile. Nonostante sia spaventato e pensi che la sua vita sia finita, Montanelli si rifiuta di chiedere la grazia. Riesce però a fuggire fortuitamente con altri compagni e a rifugiarsi per breve tempo in Svizzera. Mentre si trova nuovamente a casa, circondato dall'affetto della moglie, di sua madre e dei suoi cari, Indro sta pensando ora al futuro. Il giornalista è l'unico mestiere che gli sente di poter fare, lo ha detto in più occasioni, ma per lui ora trovare lavoro sarà difficile. Al termine del conflitto bellico, come accade per molti italiani che hanno agito come lui, gli antifascisti non gli perdonano la sua iniziale militanza nel partito. Gli ex fascisti non dimenticano la sua partecipazione alla resistenza. Inizialmente il Corriere della Sera, che non vuole personaggi controversi tra le sue fila, gli chiude le porte in faccia. Il tempo è però un ottimo medico, si sa, e dopo circa un anno Indro viene riammesso in via Solferino e diventa ben presto una delle firme di punta del quotidiano milanese. Milano a portata di mano ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano è Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Nel 1950 la famiglia Crespi, proprietaria del Corriere della Sera, decide di fare un ultimo tentativo per salvare la morente Domenica del Corriere, che sta chiudendo i battenti per la mancanza di lettori. La Domenica non si è mai rinnovata e deve fare i conti con una nuova generazione di rotocalchi moderni. Quale salvatore viene chiamato lo scrittore e giornalista Dino Buzzati, il quale apporta immediatamente una serie di innovazioni al giornale. Durante quelle che lui chiama le svanverate, riunioni della redazione in cui tutti possono dire tutto, buttare sul tavolo idee più o meno folli con lo scopo di salvare la rivista moribonda, Buzzati ha un'idea destinata a cambiare le sorti del giornale. Quella di sostituire i maestri elementari e del ginnasio che scrivono sulle sue pagine destinate a un pubblico semi-analfabeta con giornalisti di grande levatura. È a questo punto che interpella il suo amico di vecchia data Indro Montanelli, facendogli una proposta che lui, anticonformista com'è, non può rifiutare. Lo sai che solo un grande giornalista può parlare a tutti, farsi capire da tutti, che sia il garzone di un negozio o lo scienziato più istruito. Ti voglio con me alla Domenica. La trasformeremo per farla risorgere. Ti do una pagina intera, tutta tua. Ci puoi scrivere tutto quello che vuoi, che ti frulla per la mente. Su qualsiasi argomento, anche il più scabroso, senza censura. Lo intitoliamo Montanelli pensa così e ci metti quello che ti pare. Stai tranquillo, che una cosa così al Corriere non te la fanno fare di sicuro. Una pagina tutta sua. Indro Montanelli è di fronte a Dino Buzzati nel suo studio. Sulla scrivania che li divide, copie della morente Domenica del Corriere, decine e decine di meravigliose illustrazioni di Achille Beltrame e di Walter Molino, superbe sintesi della storia di un paese che Indro ama con tutto se stesso. Perché non entrare in quel sogno, si sta chiedendo? Perché non essere a fianco del suo amico carissimo in questa avventura che non è senza speranza? Perché non contribuire alla rinascita di un rotocalco che merita tutta la sua stima, che ne dicono i giovani giornalisti nei corridoi del Corriere? Parlare alla gente senza timore di essere censurato, instaurare un rapporto diretto con i suoi lettori, potersi confrontare con loro, non è forse quello che ha sempre sognato? Indro Montanelli accetta entusiasta. Dino Buzzati lo osserva. Quell'uomo alto, dinocolato, magro quanto e forse più di lui, come lui schivo, perfino ruvido, incapace della seppur minima manifestazione di asservimento a un qualsiasi padrone che non sia il suo pubblico. Quel suo amico ora è al suo fianco, in un'avventura che ne è convinto, è destinata a scrivere una pagina nella storia del giornalismo italiano. L'indipendenza dei giornalisti dipende solo dagli attributi dei giornalisti e per attributi voi sapete cosa intendo. Sono proprio quelli. Quando uno li ha, non c'è editore che lo metta sotto. Non è possibile, perché... Non per nulla, ma perché il giornalista indipendente fa paura a tutti. E noi dobbiamo far paura agli editori. Far paura a tutti, dice Montanelli, ma non a Dino Buzzati, che anzi non sta più nella pelle al pensiero di quello che il suo amico intende scrivere sulla sua pagina personale. Montanelli pensa così, che cambia ben presto nome per diventare La Stanza di Montanelli, diviene nel giro di pochissime settimane la rubrica più letta d'Italia, portando le vendite della Domenica del Corriere da meno di 500.000 alla cifra record di 1.300.000. Le svanverate di Buzzati, che si inventa un paginone centrale con le foto dei divi di Hollywood, la rubrica di consigli sui programmi della nascente televisione o quella sui miliardari da stanare, fanno suggerire a un lettore il nuovo slogan per la risuscitata rivista. Se è scritto sulla Domenica del Corriere, vuol dire che è vero. È un periodo di intensa attività per Montanelli e Buzzati, ma se il primo è conosciuto da tutti quale stimatissimo e anticonformista giornalista al servizio della verità, l'attività giornalistica di Buzzati rimane più nell'ombra. Idolatrato come scrittore, pochi gli riconoscono quelle 7-8 ore al giorno che passa in redazione a svanverare, a correggere, sostenere i suoi giornalisti e far diventare La Domenica del Corriere una delle riviste più seguite su tutto il territorio nazionale, come annoterà sulle sue stesse pagine la scrittrice Camilla Cederna. Da rotocalco si può dire milanese in via di estinzione a settimanale italiano di grande successo. Buzzati ha realizzato un miracolo editoriale senza precedenti. La stanza di Montanelli diventa un appuntamento che gli italiani amano moltissimo. In questa pagina possono instaurare un vero e proprio dialogo con il giornalista e ottenere sempre da lui una risposta chiara e sincera. Montanelli non pensa che i palestinesi siano delle povere vittime? L'Italia sarà anche la culla del diritto, ma mi pare anche la tomba della giustizia. Lei che ne pensa, Montanelli? Ho letto il suo articolo contro il razzismo. Lei ha scritto che Mussolini non creava il vento, vi si accomodava da buon italiano. È sembrato un'immagine amara, ma che descrive bene l'Italia. La stanza di Montanelli diviene il luogo del confronto, la prima realtà nel panorama editoriale italiano in cui un giornalista diventa un opinionista, in cui il lettore ha la certezza di poter dire la sua, chiedere un'opinione e ricevere una risposta sincera. Mentre si confrontano sulla selezione delle domande che arrivano numerosissime in redazione, Montanelli e Buzzati commentano il successo del loro progetto comune. Forse nemmeno loro si aspettavano tanto e possono ben essere fieri. Questa svanverata, come la chiama Dino, ha avuto un bel seguito. La Domenica non è più moribonda, anzi conosce una seconda giovinezza, persino migliore della prima. Vengono assunti nuovi redattori e la redazione si amplia notevolmente. Ma il successo di Montanelli non si ferma qui. Le sue stanze divengono luogo di domande sempre più approfondite. Il suo stile è chiaro e semplice, porta i lettori a chiedergli delucidazioni su avvenimenti passati e lentamente in Dino Buzzati si va creando un'idea, la svanverata più svanverata di tutte. Perché non proporre all'amico di scrivere la storia di Roma, quelle vicende di cui molti gli chiedono e che egli dimostra di conoscere così bene? Raccontare con parole semplici quei fatti, quegli avvenimenti che stanno alla base di tutta la nostra esistenza, le nostre origini. Lo sta chiedendo a Indro, il quale non è uno abituato a fuggire di fronte alle difficoltà. Non è un'impresa facile, ma lui intende provarci. La storia di Roma vede la luce nel 1950 sulle pagine della Domenica del Corriere, settimana dopo settimana, puntata dopo puntata. Nel 1957 diviene poi un libro. Mentre sta leggendo a voce alta la prefazione di Montanelli, Dino Buzzati non può che compiacersi di come la sua Domenica si sia saputa trasformare ed abbia generato un'opera così importante. Non ho scoperto nulla con questo libro. Esso non pretende di portare rivelazioni, nemmeno di dare una interpretazione originale della storia dell'urbe. Tutto ciò che qui racconto è già stato raccontato. Io spero solo di averlo fatto in maniera più semplice e cordiale, attraverso una serie di ritratti che illuminano i protagonisti in una luce più vera, spogliandoli dei parametri che fin qui ce li nascondevano. Se riuscirò ad affezionare alla storia di Roma qualche migliaio di italiani, sin qui respinti dalla sussiegosità di chi gliel'ha raccontata prima di me, mi riterrò un autore utile, fortunato e pienamente riuscito. Indro Montanelli. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Destini incrociati. Mai città al mondo ebbe più meravigliosa avventura. La sua storia è talmente grande da far sembrare piccolissimi anche i giganteschi delitti di cui è disseminata. Forse uno dei guai dell'Italia è proprio questo, di avere per capitale una città sproporzionata come nome e passato. Alla modestia di un popolo che quando grida forza Roma allude soltanto a una squadra di calcio. Dino Buzzati sta leggendo divertito l'ex CPIT della storia di Roma, che l'amico e collaboratore Indro Montanelli scrive nel 1950 e che viene pubblicata a puntate sulla Domenica del Corriere. Rotocalco settimanale del quotidiano di Via Solferino in gravissima crisi, la Domenica viene affidata al famoso scrittore Dino Buzzati, il quale la rivoluziona completamente, sia nella veste grafica sia nei contenuti, a cominciare dai collaboratori, che egli sceglie fra le migliori firme del Corriere. Il primo in assoluto è proprio l'amico Indro Montanelli, al quale Buzzati propone una pagina intera tutta sua, dove può scrivere quello che gli pare senza alcuna censura. La rubrica La stanza di Montanelli ha un successo immediato e porta la Domenica del Corriere a vendere 1.300.000 copie a settimana, un record straordinario. È sempre di Buzzati l'idea di far scrivere a Indro la storia di Roma, un successo editoriale tale che i suoi racconti diventano un libro e hanno un seguito che diviene in breve un'opera mastodontica. La storia dei Greci e infine la storia d'Italia dal Medioevo ai giorni nostri. Coadiuvato da Roberto Gervaso e Mario Cervi, Montanelli produce un gran numero di volumi, ognuno dedicato a un'epoca differente, e arriva a vendere oltre 1.000.000 di copie, divenendo l'opera di divulgazione storica più conosciuta del paese. Il gusto di queste edizioni piccole, popolari, che vanno veramente a un gusto, perché io trovo che se la cultura non arriva a questi strati, a questa clientela, diciamo, umile, quindi particolarmente bisognosa di cultura, è una cultura fallita. La collaborazione fra Dino Buzzati e Indro Montanelli prosegue proficua per anni. Da un lato le stanze continuano a mantenere un costante legame con i lettori, dall'altro la pubblicazione a puntate della storia d'Italia trasforma Montanelli in uno scrittore storico, divenendo un caso editoriale sia per il grande successo, sia per la particolarità dell'argomento in apparenza così poco popolare. Presto la Domenica del Corriere si trasforma in quella piacevole abitudine che tutti i lettori del Corriere attendono ogni settimana e la porta lentamente ad essere, da quella rivista di poco valore chiamata con dispregio la Domenica del Barbiere, a un rotocalco prestigioso e di cultura che viene ribattezzato la Corrierona. Sono molte le firme importanti che accettano di scrivere per Buzzati, da Orio Vergani a Max David, da Leonardo Borgese a Luigi Barzini Junior, a Piero Ottone. La Domenica del Corriere è rinata. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Il miracolo della Domenica del Corriere rivitalizza tutta Via Solferino. L'azienda crea un nuovo stabilimento stampa per star dietro alla crescente tiratura della rivista e sulla sua scia vincente vengono creati nuovi prodotti, primo fra tutti la fortunatissima Amica. Sono oramai 13 anni che Dino Buzzati svolge la mansione di direttore ombra, mentre Egidio Possenti ne ha il ruolo pubblico. E quando infine, stanco di una situazione poco chiara, Buzzati chiede una doverosa definizione, non gli viene offerta la direzione, ma solamente la posizione di critico d'arte. Ci si aspetterebbe altro, no? Per chi ha risollevato un giornale morente portandolo al successo. Buzzati ne sta parlando con il suo grande amico e collega Indro Montanelli. Ma si sa, il giornalista è un toscanaccio senza mezza misure, si può bene immaginare come la pensa. Buzzati ha deciso, pianta baracca e burattini e lascia la Domenica al suo destino, non senza una punta di amarezza che condivide con l'amico Indro. È il 1963. Le strade professionali dei due amici si dividono. Buzzati prosegue la sua attività di scrittore con enorme successo e vive anche una felice stagione nella sua vita privata, quando incontra quella che diventa sua moglie, Almerina Antoniazzi, di 35 anni più giovane, che gli starà vicina fino alla prematura morte dello scrittore, avvenuta nel 1972 per un tumore al pancreas. La Domenica del Corriere, orfana del suo salvatore, si avvia su una china negativa. Oggetto di alcuni tentativi di rilancio negli anni 70 e 80, viene chiusa definitivamente nel 1989. Indro Montanelli trasferisce la sua rubrica La Stanza al Corriere della Sera, dove continua ad avere un successo sempre crescente. Ma poi accade qualcosa. Il giornale nacque in un momento in cui tutta la stampa, dico tutta, era trascinata da un vento di sinistra, ci voleva una voce che rompesse il coro. Nel 1974, contemporaneamente alle nozze con la collega Colette Rosselli, meglio nota con lo pseudonimo di Donna Letizia, Indro lascia il Corriere e fonda il suo quotidiano, Il Giornale, che dirige fino al 1994, anno in cui entra in diretto contrasto con l'editore Silvio Berlusconi, appena entrato in politica. Strenuo difensore della sua indipendenza, che lo porta addirittura a rifiutare la carica di senatore a vita offertagli dall'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga, Montanelli rimane fino alla morte, avvenuta nel 2001, a 92 anni, quello stesso spirito libero che nel lontano 1950 gli fa accettare l'offerta dell'amico Dino Buzzati, quella pagina tutta sua dove svanverare e dire tutto quello che gli va.